Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, partiamo subito dell'Ucraina, di cui parleremo anche per via dell'impatto da un lato ritorsioni, dall'altro sanzioni, ma a noi interessano soprattutto quelle che vengono chiamate ritorsioni russe contro le sanzioni europee. Perché lo dico? Perché oggi l'accordo, o meglio la tregua e la speranza che questa tregua poi si strutturi e arrivi ad essere un vero e proprio accordo tra i ribelli filorussi e il governo ucraino ha rinvigorito non solo chiaramente l'aspetto diplomatico, ma anche e soprattutto quello di borsa. Milano guadagna il 2% adesso. Ci sono attese questa sera per il Bash Book della Federal Reserve, domani la Banca Centrale Europea, però dicevo Milano più 2%, Parigi più 1,15, Francoforte più 1,40. Aveva dato una mano anche Wall Street, che adesso guadagna lo 0,40%, Londra fa più 0,90%, l'euro a quota 1,31, ma devo dire che sono pochissimi i titoli negativi, praticamente solo Telecom Italia, di cui parleremo, meno 0,12%, non tanto di Telecom ma di quello che, stando a un'indiscrezione che aveva oggi solo sulle 24 ore, potrebbe capitare a Telefonica, quindi l'azionista di riferimento di Telco, che è l'azionista di riferimento di Telecom Italia. Poi ricorderemo la vicenda, un po' complicata, assomiglia un po' a una Telecom novella, che cosa fare di Team Brasil, come acquisire l'altra concorrente di Team Brasile, soprattutto perché non è andato a buon fine l'opzione Francia o Spagna, purché se magna non abbiamo beccato né la Francia né la Spagna, ma adesso sembra che la Spagna, quindi Telefonica, forse abbia fatto i conti senza l'oste. L'oste in questo caso è il governo brasiliano. Ancora, per quello che riguarda invece il tema di apertura, dicevo, è difficile fare i calcoli complessivi dell'impatto sul nostro export che ha avuto e sta avendo la crisi ucraina, per due motivi: perché i dati sull'export ultime a disposizione sono relativi a maggio, quindi si era già scontato un calo, se non ricordo male, del 6,5% delle esportazioni verso la Russia, però ancora non avevano preso piede le sanzioni più forti e quindi la ritorsione più forte. Dall'altro, perché, come chiariremo, il nostro export verso la Russia non è solo quello diretto, ma c'è anche quello indiretto, ossia noi siamo fornitori, subfornitori, terzisti, chiamate come volete, di grandi gruppi anche francesi e soprattutto tedeschi, che a loro volta esportano in Ucraina. Ora, Se calano le esportazioni di Francia e Germania verso la Russia, è probabile che vi sia un danno per il nostro export anche di carattere indiretto, perché noi forniamo spesso componenti, mettiamolo così, a questi grandi gruppi tedeschi, francesi, lo dico solo come esempio, possono essere olandesi, sono i paesi più esposti, sono comunque Germania, Francia e Olanda. Parleremo quindi di Telecom, della vicenda ucraina e dell'impatto che può avere, e anche chiaramente del dato dell'OCSE di oggi, perché l'OCSE fa una fotografia delle persone senza lavoro nei paesi OCSE. Sono circa 45 milioni le persone senza lavoro nell'area. Pensate, sono 12 milioni di senza lavoro in più rispetto al prima della crisi, praticamente uno stato di disoccupati che si sono generati e si sono andati a sommare al dato precedente alla crisi, 12 milioni in più da quando è scoppiata la crisi. L'OCSE nel suo outlook, nelle sue prospettive e analisi, dedica anche un ampio spazio alla situazione italiana e sottolinea, ce ne fosse bisogno, che è particolarmente drammatica nella parte giovanile. Pensate che in Italia siamo al 12,6%, però di disoccupazione, il dato di luglio, i giovani, quindi quelli sotto i 25 anni, siamo al 43%, in Germania per i giovani sotto i 25 anni si è al 7,8%, in Francia al 22,5%, in Spagna al 54%, quindi il peggio dell'Italia. Nell'area euro però la disoccupazione giovanile è al 23%, noi ce l'abbiamo quasi doppia, e non è poco. Infatti faccio l'esempio della Francia, che pur avendo un'alta disoccupazione complessiva vicina a quella italiana, il 10,3, noi abbiamo il 12,6, ha una disoccupazione giovanile più bassa, cioè 22,5, noi al 43. Questo si chiama sì NEET, cioè giovani che non studiano, non lavorano e difficilmente vengono occupati. Si chiama anche problema della disoccupazione, so già l'obiezione nel nostro mezzogiorno, ma non solo, c'è molto nero, ho capito. Però è chiaro che è un problema che ha solo l'Italia e in parte, però ce l'ha storicamente, la Spagna. Ma noi, diciamo, mentre la Spagna ha sempre avuto un dato sulla disoccupazione più alto della media europea, noi non l'abbiamo mai avuto così più alto e purtroppo invece siamo finiti in quella parte della classifica. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Non ha torto l'ascoltatore che dice Francia o Spagna, chi me magna, non purché si magna. Ma nessuno dei due ha voluto mangiare niente, nel senso che è rimasta bocca asciutta Telecom Italia sulla vicenda brasiliana. Vediamo però gli sviluppi, li vedremo più avanti. Allora, domani, dicevo, importantissima riunione della Banca Centrale Europea, dovremmo capire, visto che siamo a inizio mese, vi sarà anche la conferenza stampa, se e quando Draghi ha intenzione di partire con il cosiddetto quantitative easing, cioè quindi con l'acquisto di pezzi di debito da parte della BCE dei vari paesi stampando euro. Allora, oggi è intervenuto il portavoce di Angela Merkel, ha detto gli euro bond, quindi titoli di debito di carattere europeo, come se fossero dei BTP europei, dei bot europei, non sono in discussione. I problemi si superano con le riforme strutturali, però uno dei membri tedeschi dell'esecutivo, o anzi il membro tedesco nel board della BCE, e lui lei è Sabine Lautschlanger, insomma, ha detto attenzione, la Banca Centrale Europea in generale non è contraria agli eurobond, ma aspetta ai vari governi poi decidere. Visto che parlavamo dell'Ox, della disoccupazione, vale la pena sottolineare come due paesi che erano considerati appunto tra quelli più deboli, e mi riferisco alla Spagna e all'Irlanda dell'area euro, stanno conoscendo continui dati positivi dopo le riforme, lo dicono gli osservatori, non lo diciamo noi, le riforme strutturali avviate. Mi riferisco appunto a Spagna e Irlanda. Allora, ad agosto l'indice composito che misura l'andamento di servizi e manifattura è salito in Spagna a quasi 57 punti, è il livello più alto dal 2007. In Irlanda, che è uscita dal programma di aiuti internazionali, è volato ai massimi da 14 anni, a 62 punti. Da noi invece è sceso. Mi dispiace, qualcuno dice date solo brutte notizie, noi diamo le notizie, poi se sono belle o brutte non è colpa nostra. Ma insomma, in Italia l'indice è calato da 52 punti a 49, quello dei servizi, da 52,8 a 49,8, e quello composito da 53,1 a 49,9 punti. Quindi c'è stato un calo era atteso, ma non così forte. Lo dico anche al governo, qualcuno si legga, non avessi fatto l'intervista oggi del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, a Matteo Renzi, l'insistenza con cui Napoletano chiede a Renzi se ha ben presente la drammaticità della situazione economica del paese, perché delle volte la sensazione è che i numeri vengono presi così come numeri, così come se fossero cose. Attenzione, quando tu vedi che la Spagna a parità di indice va a 56,9 punti e cresce, l'Irlanda va a 61,8, la Germania e la Francia sono stabilmente sopra i 50. 50 è il discrimine per capire se tu stai crescendo o se sei in recessione. Noi da 53 scendiamo a 49,9, hai voglia di dire dai buone notizie, Barisoni? Cioè, c'è un paese che si è di nuovo completamente fermato. Ecco perché il realismo che si chiede al governo non è il pessimismo, non è essere gufi, ma realisti sì. La scuola, il governo bandirà nella primavera del 2015 un concorso per 40.000 posti per il triennio 2016-2019. Poi verranno stanziati 3 miliardi, il governo calcola un investimento di 3 miliardi per assumere 148.000 nuovi docenti, i cosiddetti precari. Confermati gli scatti in base al merito, poi il rafforzamento del piano formativo per le lingue straniere dai 6 anni e la diffusione, attenzione, dello studio dei principi dell'economia nelle scuole secondarie. Noi non siamo che contenti, anche perché un po' di divulgazione abbiamo cercato di farla in questi anni, ma non è nostro compito fare divulgazione, basta, o meglio sostituirci alla scuola. Insomma, siamo uno dei pochi paesi in cui non si insegna nulla di economia nelle scuole superiori, per cui poi la gente non capisce nemmeno il rapporto che ci può essere tra tassi di interesse, inflazione, tassi di interesse, crescita economica, cioè proprio i rudimenti minimi. Poi è difficile anche leggere la vita quotidiana se tu non hai ben chiaro perché una banca, per esempio, alza il costo del denaro o lo abbassa a seconda della situazione economica, qual è il nesso causale che lega tasso di interesse con inflazione. Però questo è anche il frutto di una scuola che se n'è sempre bellamente fregata dall'economia, diciamola tutta. E poi Premier Renzi che dice: se in 12 mesi riformiamo la scuola, garantiamo la crescita e poniamo le basi per una crescita del paese nei prossimi 20 anni. Vi propongo un patto educativo, non l'ennesima riforma, non il solito discorso che propongono tutti i politici: adesso dobbiamo cambiare le regole del... No, vi propongo una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana, ma soprattutto per darle importanza, perché i politici di solito, quando parlano di scuola, la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro. La scuola è quello che resta, prima c'è da rifare la pubblica amministrazione, riorganizzare il bilancio dello Stato, sistemare i vincoli economici, tutte cose importanti, ma è la scuola il cuore di tutto. Se noi saremo in grado, nei prossimi 12 mesi, di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi 20 anni. Attenzione, qualcuno dice: lei sbaglia a dire, Barisoni, che la riforma della scuola non riguarda l'economia. No, attenzione, riguarda l'economia, nel senso che la formazione dei nostri studenti, dei nostri giovani, è poi un elemento fondamentale, anche se non l'unico, nel garantire loro un futuro occupazionale, quindi riguarda l'economia. Ho detto che non è un argomento prettamente economico tutto l'impianto che Renzi oggi ha annunciato, infatti citavamo i 3 miliardi e i precari stabilizzati, il corso di inglese e l'insegnamento dell'economia dentro la scuola. Faccio notare, visto che citavo l'intervista di Matteo Renzi al Sole 24 Ore al direttore Roberto Napoletano, che oggi nell'intervista, nelle due pagine di intervista, Renzi sostiene che arriverà a fare tagli con la spending review di 20 miliardi l'anno prossimo, nonostante quest'anno ne avevano fatti solo per 3 miliardi, che dal bonus da 80 euro non si torna indietro e quindi non vi sarà nessuno scambio tra bonus e invece riduzione fiscale per le imprese, per il costo e la pressione fiscale delle imprese a partire dall'IRAP. E poi che sul capitolo privatizzazioni si faranno come annunciato e gli obiettivi previsti verranno tutti rispettati, ma non partendo da Eni ed Enel, dove, dice Renzi, non è prioritario ridurre le quote dello Stato in due società che hanno grande potenzialità. E anche sulle Poste esiste il tema di far cassa, continua Renzi, ma con il ministro Padoan troveremo le soluzioni idonee. E poi il passaggio sulla riforma del mercato del lavoro, in cui Renzi indica come via maestra il contratto a tempo indeterminato flessibile e il superamento dell'articolo 18 e del reintegro obbligatorio. Quella è la direzione di marcia, mi sembra ovvio, sarà possibile solo però se si cambierà tutto il sistema delle tutele. Poco fa il ministro della pubblica amministrazione Mariana Madia intanto ha messo, diciamo, la parola fine al dibattito cosa capiterà allo stipendio degli statali, perché stando a quello che ha appena detto non ci sono risorse per lo sblocco dei salari della pubblica amministrazione. In questo momento di crisi le risorse per sbloccare i contratti a tutti non ci sono. E quindi, prima di tutto, ha continuato Mariana Madia, guardiamo a chi più ne ha bisogno, quindi confermiamo gli 80 euro che vanno anche ai lavoratori pubblici. Ne abbiamo parlato ieri di consumi, oggi vi torniamo perché ieri ne abbiamo parlato con la Confesercenti sul fronte, diciamo, dell'offerta degli esercizi commerciali che chiudono. Ogni esercizio che apre, due hanno chiuso, anche nei primi mesi del 2014. Adesso ci occupiamo sul fronte dei consumatori. Perché? Perché i consumi degli italiani, lo dice la COP, il rapporto della COP 2014, si sono fermati proprio sull'orlo del baratro. Sono andati persi 15 punti di PIL, 230 miliardi di euro di consumi. E hanno perso gli italiani 2.700 euro a testa in 8 anni, ma non hanno completamente o azzerato banalmente tutti i consumi, hanno modificato in buona parte anche i consumi. Non hanno infatti rinunciato al cibo, quello salutistico, etico e biologico, e alla tecnologia, soprattutto la tecnologia, diciamo, degli smartphone, chiamiamoli così. E quindi siamo un popolo, dice la COP, di maniaci del cibo, food maniac, come dicono gli inglesi, e anche della parte digitale. E dove abbiamo risparmiato? Nell'acquisto delle macchine, quindi boom del noleggio, nei trasporti, però solo il 44% non è disponibile alla condivisione della macchina, per esempio, mentre tra inglesi e francesi il 77% non è disponibile, anche i tedeschi quasi il 60% non è disponibile. Noi siamo molto più disponibili a condividere passaggio, macchina, automobile, trasporto. La nostra Anna Marino ha chiesto a Marco Pedroni, che è il presidente della COP, quali prospettive e interventi del governo alla luce di queste fotografie potrebbero essere necessari. Si sono fermati i consumi, sono andati indietro perché il potere d'acquisto negli ultimi anni è calato di tanti punti, oltre 10 punti. C'è una ripresa forte, per esempio, dell'interesse per tutti i temi del cibo, della cucina, del fare cucina anche da parte dei giovani. C'è un interesse a un cibo buono e sicuro, c'è una forte attenzione al biologico, per esempio. E quindi ci sono delle situazioni qualitative che fanno ben sperare. Però è chiaro, gli italiani hanno meno soldi in tasca. Si risparmia sicuramente di più, si risparmia soprattutto laddove è possibile risparmiare, perché ci sono certi settori con spese obbligate in cui è quasi impossibile risparmiare, ma nell'alimentare, come nel vestiario, nei beni durevoli per la casa, si è risparmiato. Per esempio, nell'alimentare si è risparmiato utilizzando molto di più le promozioni, ma si è risparmiato utilizzando molto di più i prodotti a marchio. C'è maggiore disponibilità anche alla condivisione. Per certi aspetti sono alcune tendenze tipicamente europee, tutta la crescita, per esempio sul tema della condivisione dell'auto, oppure sul tema dell'utilizzo di internet, sono tendenze europee, gli italiani stanno andando alla velocità europea, in qualche caso anche superiore. Da parte del governo che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una politica di sostegno alle fasce più deboli, che sono anche quelle che possono sostenere di più la domanda interna e i consumi. Ci aspettiamo una politica, e non abbiamo sentito ancora molto su questo, di ripresa delle liberalizzazioni, che sono più che le privatizzazioni, liberalizzazioni in certi settori sono un modo per dare valore ai consumatori e sostenere l'economia. E ci aspetteremo una cosa che dovrebbe essere nelle corde di questo governo, in parte lo è quando parla di scuola, ma ci aspettiamo una politica di sostegno alla natalità. L'Italia è il paese peggiore in Europa tra i grandi paesi sulla natalità. Quindi interventi che aiutino i consumi, interventi anche di incentivazione, dare più liquidità alle persone, gli 80 euro per esempio? Gli 80 euro sono stati un fatto, io credo, positivo. È chiaro che non si poteva pensare che fossero sufficienti per invertire il trend. Noi pensiamo, però io penso che se non ci fossero stati oggi staremo ancora peggio. È chiaro che accanto agli 80 euro vanno fatte ora anche altre cose, in particolare di sostegno alla domanda interna, e queste cose vadano fatte, diciamo così, con una prospettiva non di brevissimo ma anche di medio periodo. Molti sms sul boom dell'autonoleggio, quindi invece che acquistare l'auto la si noleggia. È interessante perché molti ascoltatori mi stanno scrivendo: attenzione, chi lo pratica lo fa perché si rende invisibile al fisco, è la risposta allo spesometro barra litrometro, è la risposta Equitalia. Non so se sia così, prendo atto delle vostre della vostra osservazione. Ancora per quello che riguarda, ci sono molti messaggi che dicono: beh, un paese in cui tu risparmi sull'essenziale ma cambi spesso lo smartphone, ma è una povertà più intellettuale che economica. No, guardate, uno può pensarla come vuole, ma è un po' diverso. E cioè, il consumatore, lo sappiamo da molti anni, sta mantenendo gli acquisti quando può invariati laddove vede un alto valore aggiunto. E piaccia o non piaccia, nello smartphone, vuoi perché ti rende più, ti rende socialmente simile agli altri, vuoi perché ha una marea di applicazioni, insomma viene visto molto valore aggiunto. Mentre laddove il valore aggiunto non c'è o viene percepito di meno, come cambiare l'auto come si faceva negli anni 80-90 ogni 3 anni, cambiare l'abbigliamento ogni anno, uno ritiene che dal punto di vista del valore aggiunto che ha nella percezione di sé nella società non ce ne sia tanto, quindi è più importante essere al passo con i tempi con uno smartphone che non avere l'ultimo abito, l'ultima automobile. Uno può pensarla come vuole, forse era provinciale essere il paese che ha più auto pro capite rispetto alla Gran Bretagna e anche la Francia e la Germania, era un po' provinciale avere l'auto sempre nuova da con cui andare su e giù per la via principale del paese, o forse più provinciale a cambiare lo smartphone, non lo so, dico semplicemente che i consumi non hanno avuto un taglio orizzontale ma molto selettivo, sono crollati drasticamente in alcuni settori, moda, abbigliamento e automobile per esempio, e sono rimasti quasi invariati se non aumentati in altri settori, la tecnologia diciamo di ultima generazione. Professor Marco Fortis, docente di economia industriale della Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, buonasera. Buonasera. Con lei parliamo dopo il meteo, invece, come lei già anticipava oggi su Sole 24 Ore, insomma, dell'impatto, dei primi calcoli sull'impatto della crisi ucraina e russa e soprattutto delle ritorsioni russe sul nostro export. Però mi dica una cosa, come la pensa lei sui consumi? Volevo interrogarla su quest'ultima notizia prima di arrivare al tema vero e proprio, perché anche il rapporto COP segnala una cosa che vediamo da anni: non c'è stato un crollo uguale per tutti, alcuni settori stanno quasi scomparendo nelle dinamiche che vedevamo prima, altri sono rimasti molto alti. È cambiata anche la percezione del valore aggiunto? Ma io le confermo quello che lei diceva prima, è esatto, perché la selezione è stata molto forte nelle tipologie dei consumi e paradossalmente però questa stessa selezione ha aggravato ancor più la crisi economica, perché abbiamo consumato di meno prodotti che produciamo in Italia e abbiamo consumato di più prodotti che importiamo dall'estero, a parte le automobili che sono state un netto miglioramento per la bilancia commerciale, perché il crollo dell'import di auto dalla Germania è stato fortissimo in questi 2 anni. Però lei dice, quando noi compriamo, banalizzo forse, ma quando compriamo un telefonino tutta la componentistica è fatta fuori in Asia in grande maggioranza, insomma, e quindi lì di Italia non c'è nulla, forse Proprio nulla no, perché c'è comunque la filiera dei servizi. No, però stavo dicendo al di là dei servizi, del mondo del commercio, ma dal punto di vista produttivo non c'è quasi nulla. Sì. Mentre la moda, l'abbigliamento, forse anche l'auto e altri settori, beh, dovrebbe confortare lei che studia sempre il nostro mondo dell'industria, il fatto che il rapporto COP dice digitale e poi food mania, che maniaci del cibo, lì magari la parte italiana è preponderante. Sì, infatti comunque, a parte che i consumi dei beni alimentari rimangono più rigidi anche durante le crisi, se c'è comunque anche una maggiore propensione verso il cibo di qualità è comunque un miglioramento per il nostro settore produttivo, che è largamente basato appunto su prodotti di alta qualità. Allora, adesso arriviamo invece anche alla sua analisi sull'export. Voglio solo citare un caso prima di lanciare il meteo e la pubblicità. È interessante che noi parliamo sempre della Sicilia, sempre, spesso purtroppo della Sicilia in maniera un po' così. Però c'è un caso di un siciliano, uno dei tanti siciliani onesti, e a questo punto obiettivamente sembra di essere in un romanzo kafkiano. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Fortis, i dati, dicevo, sul nostro export. Intanto chiariamo sul nostro export come conseguenza delle ritorsioni russe dopo le sanzioni europee sull'Ucraina. Un aggiornamento rapidissimo a chi si fosse perso qualche ultima agenzia. La Commissione europea oggi ha esaminato e varato il documento che contiene le nuove sanzioni contro la Russia. Il testo adesso è all'esame degli ambasciatori dei 28 paesi dell'Unione europea, a cui spetta la decisione finale. Il premier dell'Ucraina Yatsenyuk ha annunciato al Consiglio dei Ministri un progetto muro, vorrebbe costruire un muro nei confronti della frontiera russa, però intanto Kiev corregge il tiro, c'è il cessate fuoco ma è stato cancellato, diciamo, con la penna il termine permanente, e quindi già da stamattina si è saputo che il regime era regime di cessate il fuoco ma non permanente. Per il Cremlino, in cambio del ritiro dell'esercito di Kiev, cesseranno le azioni militari dei ribelli. Poi il nostro Presidente della Repubblica, Napolitano, che esprime grande apprezzamento per gli ultimi sviluppi. Obama dall'Estonia, che ha detto, da un lato, la Russia non può imporre, non accetteremo nessuna occupazione dell'Ucraina, ma i confini non si ridisegnano con la pistola. Però non cambia il ritmo deciso sulle sanzioni nel corso dell'ultimo Consiglio europeo, in seguito alle dichiarazioni arrivate da Kiev della tregua. Lo ha sostenuto una fonte di Berlino, quindi l'Europa va avanti. Arrivano le prime stime, secondo il ministro Martina, l'ho detto da Bruxelles, dall'embargo russo sarebbero arrivati circa 200 milioni di euro di danni all'Italia, sulle importazioni agroalimentari e basta però. Obama ha detto che le sanzioni hanno avuto un effetto reale sulla Russia, aggiungiamo noi anche le controsanzioni hanno avuto un effetto reale sull'Italia. Perché? Perché noi siamo siamo il quinto fornitore della Russia a livello mondiale, importiamo chiaramente soprattutto gas e petrolio dalla Russia, ma esportiamo merci e beni per 10 miliardi e mezzo di euro, l'anno scorso abbiamo fatto più 5%. L'export alimentare vale 500 milioni di euro, e quindi se vi fosse stato un danno di 200 milioni vorrebbe dire un danno di quasi la metà di quello che esportiamo nel settore alimentare. Il vino e gli alcolici sono un settore di punta, 260 milioni di euro. Faccio notare che sia l'export alimentare nostro verso la Russia che quello nello specifico di vino e alcolici sono aumentati l'anno scorso del 25%. E poi la pasta italiana, che ha fatto più 29%, il caffè più 21%, latte derivati più 45%, bevande analcoliche più 45%, olio d'oliva più 25%, presenze significative dei nostri gruppi in Russia, il gruppo Parmalat, il gruppo Perfetti, il gruppo Ferrero, il gruppo Cremonini, che controlla la Mar Russia, ed è il primo fornitore di carne ai McDonald's russi, bloccati a loro volta in alcuni casi dalle controsanzioni russe. Ci sono, pensate, oltre 200 ristoranti italiani, nel senso che usano prodotti italiani, nella sola regione di Mosca. E già quello che dicevo su McDonald's, professor Fortis, ci fa capire che quando parliamo di danni non sono solo quelli diretti. Mi dia una stima per quello che abbiamo e mi racconti anche cosa sono i danni indiretti, diciamo così. Ma intanto abbiamo per il momento una visione ancora un po' sfocata di quello che sta effettivamente succedendo, perché i dati ufficiali dell'import-export italiano si fermano a giugno. Sappiamo però che c'è stata un'accelerazione del calo delle esportazioni italiane verso la Russia, in particolare già a maggio erano cadute del 13,9% su maggio dell'anno prima, a giugno sono cadute del 18,6%, quindi probabilmente siamo a giugno intorno a un meno 10% di caduta delle nostre esportazioni già. Se si materializzasse su tutto l'anno un calo del 10% significherebbe perdere oltre un miliardo, circa 1,1 miliardi di sole esportazioni. Poi ci sono chiaramente i danni indiretti, che sono anche l'attività produttiva che cala delle imprese dell'indotto che servono le imprese esportatrici, quindi l'impatto anche sull'occupazione rischia di avere una moltiplicazione chiaramente, e c'è un impatto anche su quelle che sono le forniture che noi facciamo verso altri paesi dell'Unione Europea che poi a loro volta esportano verso la Russia, quindi anche il calo dell'export degli altri paesi può influire a sua volta sulle nostre esportazioni verso questi paesi. Solo a fine anno avremo certamente un quadro più preciso, ma è chiaro che se la situazione dovesse continuare con questa gravità rischiamo almeno di perdere più di 1 miliardo di esportazioni, quindi come perdita diretta. Sì, Sì, su questo preciso subito a chi scrive, ecco il solito discorso, lasciamo che la Russia faccia come gli pare, se no non esportiamo. Non ho mai detto questo, cioè un conto è l'attività diplomatica e la valutazione di politica estera che fa un governo, che fa l'Unione Europea, che fa gli Stati Uniti. Che fanno gli Stati Uniti, e ognuno la può pensare come vuole, pensare che siano giuste le sanzioni, che sia inaccettabile l'atteggiamento russo nei confronti della parte filorussa dell'Ucraina, oppure che abbia ragione la Russia nel sostenere una parte che definisce linguisticamente, tecnicamente ed etnicamente vicino alla Russia stessa. Ma noi qui abbiamo l'obbligo di fare il calcolo, purtroppo o per fortuna, dei numeri e dei danni in questo caso, al di là di come uno la possa pensare. Professor Fortis, lei che conosce tutti questi numeri settore per settore, l'effetto moltiplicativo che cos'è, ma quanto pesa rispetto all'export invece che noi vediamo? Beh, questo non è facile da dire, da calcolare, però certamente sul piano almeno dell'occupazione ci può essere un impatto significativo, nel senso che molte imprese che esportano per esempio tecnologia, prodotti finiti, a loro volta si utilizzano una vasta rete di subfornitori, e quindi la crisi dei subfornitori rischia addirittura di essere ancora più grave di quella delle imprese principali che esportano, se vengono arrestate alcune forniture verso la Russia. Mi riferisco in modo particolare a prodotti della meccanica, dell'elettromeccanica, dei mezzi di trasporto, che possono essere duramente colpiti in questa fase di tensione geopolitica. E quindi tutta la... Tutta la parte che riguarda il terzismo, subforniture e quant'altro è difficile da calcolare, perché dovresti fare il calcolo di quanto poi la singola società francese, tedesca, olandese non esporta in Russia e capire la quota parte tua, ma c'è comunque un danno anche da quel punto di vista. Mi dia una notizia confortante invece, visto che lei, professore, monitora mensilmente l'andamento dell'export comparto per comparto, distretto per distretto, da dove arrivano i segnali più così interessanti, positivi, quantomeno di tenuta? Beh, i segnali migliori per le nostre esportazioni nel corso dei primi 5 mesi dell'anno, in base agli ultimi dati dell'Istat, sono soprattutto verso i paesi che stanno crescendo di più in questo momento, cioè verso gli Stati Uniti, dove il nostro export è aumentato del 6,2%, la stessa Gran Bretagna, abbiamo avuto un più 6,6%, verso la Spagna, che comincia a muoversi, seppur lentamente, c'è un più 3% di esportazioni. E abbiamo poi anche ripreso ad esportare in Cina dopo una parentesi del 2013 in cui c'era stato un certo rallentamento. Verso la Cina nei primi 5 mesi l'export italiano è cresciuto del 10,6%. Naturalmente non sono tutte rose e fiori, perché non c'è solo la Russia come mercato negativo in questo momento, ci sono anche altri paesi come la Turchia, l'India e i paesi del Mercosur, che anche a causa delle svalutazioni delle monete di questi paesi intervenute nel corso del 2013 hanno perso potere d'acquisto e stanno attraversando un momento più difficile sul fronte del commercio estero. Quindi le nostre esportazioni stanno riprendendosi abbastanza verso paesi avanzati che hanno ripreso a crescere, e stanno invece incontrando ancora difficoltà verso paesi emergenti che hanno cominciato a rallentare con l'esclusione della Cina. E dagli Stati Uniti, mi scusi? Negli Stati Uniti le cose vanno molto bene, perché negli Stati Uniti ha ripreso l'edilizia, quindi vanno alla grande i prodotti italiani, anche prodotti in loco come per esempio le piastrelle ceramiche, ma vanno bene anche i prodotti dell'abbigliamento. Tra l'altro fra poco si apre il Cersai e penso saremo anche noi in diretta da lì, insomma, hai capito quando è, poi non ricorderò anch'io, a metà settembre a Bologna, mi sembra, se non ricordo male. Scusi l'interruzione, prego professore. No, anche l'abbigliamento, le calzature verso gli Stati Uniti stanno andando molto bene, gli stessi mobili, quindi il mercato americano sta tirando moltissimo, come messo in evidenza anche dai servizi del Sole 24 Ore delle ultime settimane, e anche quello inglese sta avendo un buon recupero, sia appunto nei prodotti per la persona e la casa, abbigliamento, pelle, ma anche per esempio per quanto riguarda prodotti dell'edilizia e la casa come piastrelle, mobili. Poi c'è anche la Germania, che nella prima parte dell'anno aveva tirato bene, soprattutto con l'edilizia, infatti erano andate bene le nostre esportazioni di metalli, di prodotti a base di minerali non metalliferi. Bisognerà vedere però, perché adesso la Germania anche lei ha preso duri colpi all'export, e quindi probabilmente anche le nostre esportazioni verso la Germania ne risentiranno. Allora mi chiede vedete quali sono le province più colpite quanto a export nei confronti della Russia? Beh, Milano, Vicenza, Bologna, Varese, Treviso, Reggio Emilia, Padova, Verona, Brescia e Modena. Abbiamo fatto praticamente buona parte del nord del paese. Grazie a Marco Fortis in collegamento con noi, appunto vicepresidente della Fondazione Edison e, come dico sempre ogni volta, grandissimo conoscitore dei dati, dei numeri veri, degli andamenti veri dei settori e dei prodotti dei nostri settori industriali. Insegna economia industriale alla Cattolica di Milano. Allora, va bene, c'è chi tifa Putin, chi dice che invece dovremmo cacciare Putin. Ricordo che il programma si chiama Focus Economia, ricordo che adesso c'è il traffico. Faircam, il tuo partner per soluzioni logistiche integrate. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Strade in diretta. Per i soliti spostamenti pendolari il traffico è intenso, con code in uscita da Milano, in particolare lungo la 4, il tratto urbano, il tratto milanese della 4, mentre a Roma ci sono disagi per il maltempo, difficoltà di circolazione in via Montefalco per la caduta di cornicioni e per rami in carreggiata su vari tratti della via di Boccea. Altre difficoltà per lavori, code di 3 km sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte di Reis e la diramazione per Pisa verso Livorno, e sulla 13 Bologna-Padova tra Occhio Bello e Villa Marzana in direzione Padova. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Giustamente mi fate notare che non ho citato il caso virtuoso siciliano. Avete ragione, perché che cosa è successo? Una cosa brevissima, però visto che parliamo della Sicilia sempre o spesso per la cattiva amministrazione e per il cattivo uso della cosa pubblica, beh, questa notizia sta veramente ci ha lasciato perplessi. Perché? Perché abbiamo un caso di un contribuente catanese sanzionato dal fisco. Voi direte, che cosa avrà fatto per essere sanzionato dal fisco? Non ha pagato le tasse, ha omesso la dichiarazione, ha fatto il furbo? No, ha anticipato nel 2009 il pagamento di quanto dovuto allo Stato nel 2010. Cioè, voglio dire, uno perché paga le tasse in anticipo viene multato? Allora se le paghi tardi mi devi dare un premio, fammi capire. Cioè, Salvatore Leonardi, 60 anni, ingegnere di Catania, consulente tecnico per una banca italiana, secondo il fisco ha presentato una dichiarazione infedele. Perché? Perché ha anticipato il pagamento di quanto dovuto nel 2010 all'anno 2009 e per questo dovrà pagare una multa di 5.000 euro. Oh, ma stiamo scherzando? Vabbè, occupiamoci della borsa, che è meglio, anche se io non so, immagino che possa fare un ricorso. Io non penso che esista un paese al mondo in cui si anticipi il pagamento delle tasse che devi l'anno prossimo, quest'anno ti multano perché lo Stato non vuole i tuoi soldi prima, li vuole giusti, né troppo presto né troppo dopo. Ma che è, la cultura della pasta, non capisco. Vabbè, più 1,90% Milano, più 1,26% Francoforte, più 1% Parigi, più 0,60% Londra, più 0,17% l'America. Oggi c'è attesa per il beige book, ma soprattutto tutti sono convinti che domani Draghi inizierà a comprare debito, annuncerà il quantitative easing, l'acquisto di pezzetti di debito dell'area euro stampando euro, e poi anche l'accordo, la tregua non permanente tra ribelli filorussi e governo ucraino ha contribuito. Dottor Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea SGR, buonasera. Buonasera. Anche lei tra quelli che domani pensa che Draghi annuncerà, sì, partiamo con lo stampaggio, come lo chiamo io? Noi non, proprio è nostra politica non fare mai previsioni, e credo che proprio in questo caso, quando si tratta delle intenzioni di una persona così al centro dell'attenzione, sia ancora più pericoloso farne. Non si può basare le proprie decisioni di investimento su quello che farà o non farà domani Draghi. È anche vero che ci sono degli ottimi motivi per farlo, degli ottimi motivi per non farlo. Una cosa che non ho ancora tanto sentito in giro dire è che mentre che lo faccia la BCE toglie un po' le castagne dal fuoco all'America, che è in fase di rientro. Quando poi dovrà rientrare la BCE, non gli toglierà le castagne dal fuoco nessuno. Cioè, lei dice l'America adesso deve ridurre lo stampaggio di dollari, lo sta già facendo, perché sennò il mercato è troppo gonfio di liquidità, di bigliettoni, diciamo così, e si rischia la bolla, e noi gli togliamo le castagne dal fuoco perché iniziamo noi a indebolire l'euro stampando più euro, e loro, quando toccherà a noi tirare la cinghia, sì, io apprezzo la sua lungimiranza, vorrei arrivare a un periodo, no, ma voglio dire, no, mi piacerebbe arrivare a un periodo in cui il problema sarà che cresciamo troppo, bisogna bloccare la liquidità, però prego. No, dico, bisogna pensare a tutti gli aspetti, ecco, cioè bisogna pensare agli aspetti immediati, a quello che può dare effettivamente in termini di aiuto alla crescita, e bisogna pensare però poi a come poi evolvere nel tempo. L'altra cosa a cui credo, l'altro aspetto importante su cui credo il consiglio della BCE si stia focalizzando è anche vedere quanta pressione un eventuale sollievo finanziario toglie ai governi per l'attività di riforma. Cioè, tradotto, lei ha paura, la paura che se Draghi dà una mano, poi i governi che devono fare la riforma, a partire da quello italiano e francese, possono tornare a sedersi e non fare le riforme. E credo che questo sia stato l'elemento principale che abbia trattenuto fino adesso la BCE dall'intervenire con più decisione. Quindi, la dimostrazione che Mario Draghi, i francesi e gli italiani li conosce bene, perché siamo un popolo che finché non è proprio con la canna del gas o con qualcosa che galleggia, diciamo, verso la gola, non ci muoviamo. Allora, senta una cosa, sui titoli invece, Mediobanca più 4,14%. Bene Tod's più 3,75%, molto bene anche Enel più 3,50%, Popolare Emilia Romagna più 3,20%, oggi buona giornata per le banche, bene anche Intesa San Paolo più 2,92%, Unicredit che sta collocando un bond più 2,90%, Fiat sale del 2,71% dopo le vendite di Chrysler negli Stati Uniti, ma è arrivato a guadagnare anche il 3%. Che è successo a Safilo? Lei ha seguito la vicenda? Ma sì, Safilo ha avuto meno 25,70%, prego. Sì, è un bel esempio, al di là del caso singolo loro, invece che licenziatario diventano solo partner produttivo della società di Pinot, che si chiama Kering, dove c'è dentro il marchio Gucci, Yves Saint Laurent, eccetera, eccetera. E quindi è un bel esempio di come l'inserimento di elementi di incertezza, perché non si sa esattamente quindi come evolverà in futuro il fatturato di Safilo, pur davanti a un compenso monetario che viene dato da Kering, come l'incertezza fa istantaneamente abbassare la valutazione di una società. È proprio un esempio da scuola, no? Cioè, qua non è perché ci sia stato un venditore. No, non si vende sulla notizia, esatto, non si vende sulla notizia, ma sull'incertezza. È bello. Prezza diversamente un flusso di utili che diventa improvvisamente nettamente più incerto, quindi deve essere sì, ma non che siano calati gli utili, è solo più incerto. No, è più incerto, e quindi come dire, e quindi vale meno. e 8 minuti di nuovo in diretta con Focus Economia. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa e citando appunto il caso emblematico, come diceva il nostro ospite di oggi, ossia Roberto Brasca, che è vicepresidente di Acomea SGR, appunto il titolo Safilo che è crollato in borsa meno 25,70% dopo aver deciso con Kering, che è appunto la ex PPR, l'holding del lusso di François Pinault, di anticipare di 2 anni, e quindi a dicembre 2016 la conclusione del contratto di licenza Gucci, ricevendo comunque a titolo di compensazione 90 milioni di euro. Però appunto l'incertezza, come spiegava bene lei, Brasca, è in questo caso un'incertezza pura, non è un'incertezza giustificata da delle cifre. Vorrei un suo ultimo commento sui titoli bancari oggi, perché insomma abbiamo visto che in realtà sono tutti molto in fibrillazione. Eccesso di ottimismo? Ma io credo che oggi ci sia stato. Il mercato veniva da qualche seduta un po' incerta e le banche non hanno veramente reagito al restringimento dello spread sui titoli di Stato. Oggi io credo che a fronte della notizia del cessate il fuoco in Ucraina ci sia stato un acquisto sull'indice italiano, quindi se lei guarda in effetti sono più le banche appartenenti all'indice titoli del MIB, del FTSE MIB, che si sono mossi con più forza, anche in virtù del fatto che non avevano risposto al loro restringimento degli spread. Faccio un esempio: mentre Intesa San Paolo e Unicredit salgono circa del 3%, vedo, non so, la Banca Popolare di Milano che sale dello 0,41 piuttosto che la Sondrio dell'1%, ecco, quindi è un panorama un po' misto dove ovviamente i pezzi grossi la fanno, ma è anche poi domani c'è anche l'appuntamento di Draghi, quindi qualcuno compra l'indice che è molto più facile da gestire per far salire o scendere l'asset allocation, cioè la quantità di azioni in portafoglio, piuttosto che comprare e vendere i singoli titoli magari con minore liquidità. Unico titolo debole, non negativo in senso stretto, però debole, Telecom Italia, meno 0,12%, e adesso parliamo di Telecom Italia, o meglio, della vicenda la Telecom Commedia, come l'abbiamo chiamata, che riguarda la concorrente, in molti casi in Brasile, GVT, quindi la società brasiliana di telefonia fissa, acquistata da Telefonica per 7,5 miliardi dai francesi di Vivendi, dopo una breve battaglia, insomma battaglia forse anche eccessivo, è stato uno scambio di colpi che si è concluso a sorpresa. Grazie intanto al dottor Brasca. Allora 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, c'è questa società in Brasile che si chiama GVT, che fa di tutto, fa telefonia mobile ma anche pay TV, che era nell'interesse, diciamo, nelle brame di Telefonica. Telefonica, che è la Telecom spagnola, è anche l'azionista di riferimento di Telecom Italia, o meglio, l'azionista di maggioranza di Telco, che a sua volta è l'azionista di riferimento di Telecom Italia. Qual è il problema? Il problema è che a un certo momento era sembrato che, o meglio, le intenzioni di Telecom, che controlla in Brasile, Team Brasile, erano quelle di allearsi con i francesi contro gli spagnoli. Ora, anche un bambino capisce che è un po' strana un'operazione in cui ti allei con i francesi contro qualcuno che è anche il tuo azionista di riferimento. Però questo avrebbe portato a un passaggio di pacchetto, diciamo così, sarebbero usciti gli spagnoli e entrati i francesi in Telecom Italia. Ecco il perché della battuta: Francia o Spagna, purché se magna. In realtà non è successo nulla di tutto questo, perché si sono accordati Vivendi, adesso la sintetizzo, con Telefonica. Telecom Italia è rimasta fuori dalla partita e molti hanno detto: ecco, un'occasione persa, comunque l'Italia conta meno, il peso di Telecom, queste le critiche che abbiamo letto, non è stato un peso tale da portare dalla sua Vivendi e permettere l'uscita degli spagnoli. In realtà oggi su Sole 24 Ore Antonello Olivieri scopre qualcos'altro che potrebbe essere una grossa rogna per Telefonica nell'operazione su GVT, quindi l'operazione in Brasile. Antonella, buonasera. Buonasera. Che cosa potrebbe bloccare un'operazione che, insomma, a Telefonica è costata 7 miliardi e 400 milioni di euro? Bloccare non direi, nel senso che ormai Alerta si è impegnato a corrispondere a quella cifra elevatissima ai francesi Vivendi. Qualsiasi cosa succeda, Telefonica l'ha sfilata a Telecom, e su questo non ci sono dubbi. Il problema è che l'ha sfilata con un blitz non solo molto generoso dal punto di vista dei multipli, secondo alcuni anche un investimento che non si riuscirà mai a mettere a reddito a questi livelli, ma comunque non ha evidentemente nemmeno informato prima le autorità locali, e che adesso non sono, diciamo, esattamente molto favorevoli a stendere un tappeto rosso sull'operazione. In ogni caso, dovesse esserci qualche problema, e ci sarà sicuramente qualche problema con l'antitrust brasiliano col quale Telefonica ha già aperto un contenzioso perché in disaccordo su quanto stabilito dall'authority sul comportamento di Telefonica in Telecom e sul mercato brasiliano. E in ogni caso sono problemi di Telefonica, perché ai francesi andrà comunque questo assegno da 7 miliardi e mezzo e se poi l'antitrust brasiliano metterà dei paletti se la dovrà vedere Telefonica, e forse sarà un problema di allerta con i suoi azionisti, ma questa, diciamo, una puntata che si rinvia nel tempo. Quindi da questo punto di vista allerta deve comunque pagarli 7 miliardi e 400 milioni, esatto. Il problema potrebbe essere non tanto, quindi, e Vivendi da questo punto di vista è al sicuro. Sì. Potrebbe essere l'intoppo che creano le autorità di controllo in Brasile. Sì, ecco, perché c'è un precedente. 5 anni fa c'era stato Vivendi si era giudicata GVT, ma in Lizza si era scontrata esattamente con Telefonica. Entrambi, sia Vivendi che Telefonica, avevano chiesto l'autorizzazione preventiva. Allora era all'Anatel, cioè all'autority locale delle TLC, e mentre Vivendi ovviamente non aveva avuto nessun problema perché non era ancora presente in Brasile, Telefonica, di fatto il monopolista di San Paolo, cioè l'area più ricca del paese, aveva avuto una risposta non proprio molto soddisfacente, cioè se l'avesse acquistata per 5 anni avrebbe dovuto tenere GVT completamente separata, quindi zero sinergie per 5 anni, e poi si sarebbe visto. Sì, strano, dico, che gli spagnoli non si ricordassero questo precedente francese, però forse lì c'è stata più la corsa o l'obiettivo a acquisire GVT senza andare troppo per il sottile. Certamente il problema era non uscire con le ossa rotte dall'avventura Telecom, che per loro è stata francamente un disastro, perché abbiamo fatto i conti oggi, hanno perso quasi 3 miliardi sull'investimento in Telecom, e se poi il risultato fosse stato che non solo ci hanno perso come azionisti, ma addirittura avessero assistito impotenti al rafforzamento di un loro concorrente, il primo concorrente per loro in Brasile sulla telefonia mobile, sarebbe stato in Brasile, cioè non solo compri una società, ci perdi 3 miliardi e poi la stessa società di cui tu sei azionista di riferimento ti fa la guerra in Brasile. Insomma, certo, si dice in finanza cornuto e mazziato a quel punto, perché certo, devo dire che però Alierta, il numero uno di Telecom, con così forse con un po' di understatement, ha detto: beh, la nostra intenzione è uscire da Telecom, l'ha confermato moltissime volte, e poi ha detto: il principale ostacolo che abbiamo incontrato nell'esperienza come azionisti di Telecom è stato quello di non essere italiani. Troppo buono, cioè hanno avuto anche una perdita mica da ridere di 3 miliardi di euro. Grazie a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Adesso andiamo verso il traffico e poi l'ultimo tema annunciato di questa puntata, ossia il rapporto che c'è due volte l'anno dell'Ocse, il cosiddetto Employment Outlook, che rileva come siano cresciuti i disoccupati, le persone senza impiego a livello dei paesi che fanno parte dell'Ocse da quando è scoppiata la crisi, a livello di 12 milioni di persone senza lavoro in più, e quindi diventano 45 milioni. Ma l'outlook dell'Ocse, come dicevamo in apertura, ha anche una fotografia e si concentra molto sull'Italia, chiedendo una riforma completa del mercato del lavoro. Sì, si concentra anche e soprattutto sull'Italia l'outlook dell'Ocse e sulla disoccupazione giovanile. Lo dicevamo in apertura, se noi guardiamo i dati complessivi, allora la disoccupazione italiana è drammatica ed è a record, però siamo al 12,6%. Perché dico però? Perché la Francia è al 10,3%, l'area euro come disoccupazione è all'11,5%. Quindi da questo punto di vista il rapporto italiano è un po' più alto rispetto alla media, ma obiettivamente non così distante, come invece lo vediamo quando andiamo a vedere lo stesso dato, ma sulla disoccupazione giovanile, cioè tra chi ha meno di 25 anni. Perché la media europea in questo caso è altissima, ci mancherebbe, del 23,2%, la Francia è in linea, 22,5%, e invece l'Italia ha una media di disoccupati giovani che è il doppio della media europea, cioè il 43% quasi, ci batte solo la Spagna col 53,8%. E i disoccupati giovani dal 2007 sono raddoppiati, con la percentuale più elevata fra le donne, 41,4%. Direttore Stefano Scarpetta, direttore della divisione lavoro e affari sociali dell'OCSE, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, lei ha dichiarato a margine della presentazione dell'outlook, delle prospettive di oggi, l'Italia ha bisogno di una riforma completa del mercato del lavoro. È sulla parte giovanile che spicca di più il nostro ritardo, perché a guardare le percentuali non è che uno possa dire mal comune mezzo gaudio, ma siamo più in media sulla disoccupazione nel suo complesso, mentre su quella giovanile veramente siamo al doppio rispetto alla media europea. Ma lei ha ricordato le cifre essenziali, secondo me ci sono due dimensioni importanti. Una è effettivamente l'Italia ha un tasso di disoccupazione aggregato un po' superiore rispetto alla media europea, sicuramente molto superiore rispetto alla media dei paesi OCSE. Quello che differenzia l'Italia insieme alla Francia rispetto a molti altri paesi è che negli altri paesi abbiamo visto una riduzione della disoccupazione nell'ultimo anno, almeno negli ultimi mesi. In alcuni casi a partire da un livello di disoccupazione più elevato di quello italiano, ma comunque c'è un'inversione tendenza, le cose sul mercato del lavoro si stanno migliorando. In Italia purtroppo la disoccupazione aumenta, in Francia si è semplicemente stabilizzata su un valore che è il valore più alto durante tutto il periodo di crisi. Questa è la prima cosa importante. La seconda, lo identificava lei, effettivamente la disoccupazione giovanile, in cui siamo a dei livelli record molto vicini ai paesi con i più alti tassi di disoccupazione. Ecco, ma mentre la Spagna, mi scusi se interrompo, la Spagna storicamente, anche quando l'economia cresceva, la disoccupazione nostra calava, aveva delle cifre altissime rispetto alla media europea, come Spagna, sia disoccupazione normale che giovanile. Per noi è purtroppo una novità vedere che la disoccupazione complessiva è abbastanza in linea con quella già alta dell'Europa, ma quella giovanile è schizzata al doppio, cioè siamo diventati spagnoli da questo punto di vista. Assolutamente, forse un altro dato che sicuramente non è confortante è che rispetto di altri paesi in cui comunque i giovani che hanno avuto difficoltà a trovare un posto di lavoro hanno prolungato il loro periodo formativo, questo non è veramente avvenuto in Italia. Un altro indicatore che usiamo sovente non è il tasso di disoccupazione giovanile, ma è l'insieme dei giovani, età compresa fra i 15 e i 24 anni, che al meglio sono disoccupati oppure sono inattivi ma non sono coinvolti nel processo formativo. Se prendiamo l'insieme di questi giovani stiamo parlando del 22,4%. I NEET, quasi un giovane, i cosiddetti NEET, siamo quasi a un giovane su quattro, più di un giovane su cinque, che al meglio è disoccupato oppure non è più coinvolto nel processo formativo, ma ha anche perso in qualche modo forse la speranza di trovare un posto di lavoro e quindi non è alla ricerca attiva di un posto di lavoro. E il tema dei NEET, che vuol dire che giovani che non studiano e non lavorano, quindi non si stanno né formando né lavorando, esatto. Sono, non so, io dico di fronte alla televisione a fissare una parete, è un tema delicatissimo, perché più passa il tempo più l'espulsione dal mondo del lavoro si struttura, non è che le cose vadano a migliorare, se non ti formi o se non tenti cercare un lavoro resti fuori. Però voi dite anche in Italia un giovane su due è precario, quindi la precarizzazione del lavoro, come spesso abbiamo detto, si è scaricata quasi interamente sui giovani, e il precariato non è un punto di partenza ma una trappola. Vorrei capire cosa intende dire per trappola e se la convince il piano su cui si è indirizzato il governo Renzi di riforma del mercato del lavoro, di garanzie e tutele che vanno via via strutturandosi nel corso del tempo, cioè tutti entriamo precari ma poi via via che stiamo in un posto di lavoro, se il datore di lavoro conferma che ci vuole, viene strutturato, le tutele aumentano e quindi anche il tipo di contratto. I contratti temporanei, i contratti a durata determinata non sono né buoni né cattivi di per loro, nel senso dipende molto se sono dei trampolini verso delle opportunità occupazionali, dei posti di lavoro più stabili che permettono anche una carriera. Allora, effettivamente, come lei ricordava, per molti giovani l'accesso al mercato del lavoro si fa attraverso dei contratti a durata determinata. Il problema dell'Italia è che soltanto il 20% delle persone in generale, ma soprattutto dei giovani che entrano sul mercato del lavoro e che vi entrano attraverso un contratto a durata determinata, 3 anni dopo hanno un contratto a durata indeterminata, gli altri sono ancora con dei contratti a durata determinata oppure sono disoccupati. Quindi in Italia il contratto, molti dei contratti a durata determinata non sono dei trampolini, ma sono una situazione nella quale una volta che si entra è difficile uscirne. Molto spesso se ne esce con un periodo di disoccupazione e poi si ricomincia un altro ciclo di contratti a durata determinata. L'altra cosa è che molti di questi contratti hanno una durata molto breve. E un altro punto che caratterizza non solo l'Italia ma una serie di paesi europei è che coloro i quali hanno un contratto a durata determinata non sono coinvolti nel processo formativo all'interno dell'impresa. La probabilità di essere coinvolti in processi formativi dall'impresa è molto più bassa per coloro i quali hanno un contratto a durata determinata rispetto a quelli che hanno contratti a durata indeterminata. Quindi si crea un circolo vizioso, si ha su un contratto a durata determinata, l'imprenditore non vi forma e quindi poi la probabilità di passare a un contratto a durata indeterminata si riduce ulteriormente. E quindi per concludere il suo giudizio da esperto sulla riforma, che per come abbiamo capito dovrebbe reggersi in primo luogo su questo principio, cioè contratto a tutele crescenti, come si dice in gergo? La riforma del 2012 aveva già fatto si era già mossa un po' in quella direzione, chiarendo quali erano le condizioni sotto quali si poteva licenziare un lavoratore con un contratto a durata indeterminata. Un contratto a tutele crescenti è sicuramente un sistema che chiarisce quali sono i termini di un eventuale licenziamento, che dà certezza sia al datore di lavoro sia al lavoratore su quali sono le condizioni nel caso in cui il rapporto di lavoro non potesse continuare. Quindi in questo senso potrebbe sicuramente incentivare gli imprenditori, i datori di lavoro a creare più occupazione, ma anche più occupazione stabile, e a investire di più anche nel capitale umano dei lavoratori. E quindi il giudizio mi sembra positivo, alla fine va verso questo precariato come punto di partenza, ma non come punto di arrivo come adesso. E anche sono d'accordo con lei nel fatto che un datore di lavoro, se sa che deve, per mantenere lo stesso dipendente, deve aumentargli le tutele, forse è anche più incentivato a investire in questo dipendente e non a considerarlo solo pro tempore o comunque lasciandolo con un contratto da precario. Grazie a Stefano Scarpetta, direttore della divisione lavoro e affari sociali dell'Ocse. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto. Focus Economia termina qui. Vi auguro una buona serata e ci risentiamo domani. Chiaramente una puntata anche e soprattutto dedicata a quello che sarà l'intervento del governatore della BCE Mario Draghi. Domani, dicevo, dalle 17 in poi. Radio 24. La passione. Si sente.